Ciao, buonasera a tutti, benvenuti in una nuova puntata di Tutto Tranquillo. E come mese scorso, questa puntata è un'altra puntata molto L'edizione speciale, speciale, sì. edizione speciale, edizione rassegna atmosferica. E con noi stasera ci sono i Molom, che presenteremo domani al Al concerto. concerto di domani sera. Ciao ragazzi, Ciao, benvenuti. benvenuti. Ciao ragazzi, Ciao a super tutti. piacere essere qui con voi stasera. Bene, Come state innanzitutto? Tutto bene? tutto a posto, abbiamo già un po' quell'emozione lì perché, insomma, anche se manca solo un giorno, insomma, si percepisce già un po' questa In cosa. teoria sale di più, sempre più vicino, dovrebbe aumentare sempre di più un po' l'ansia della situazione. Sempre questa cosa non finirà mai e ormai ci siamo Vero, fatti non ci proprio si abitua carico. mai a quella cosa, ci si prova, ma non ho ancora trovato qual è No, la quadra corretta per farsi ma passare penso quell'ansietta. sia giusto così in Sì, se realtà. c'è sì, vuol dire che ci tieni probabilmente, se non ce l'hai C'è o sei qualcosa che non totalmente va, se non ce l'hai c'è qualcosa esatto. che non va. Sono d'accordo. Un po' tranquillo sempre in giro perché sto guardando le vostre storie Instagram, che siete sempre in movimento. Ma fondamentalmente sì. Diciamo che abbiamo fatto un po' un periodo di pausa, tra virgolette, a febbraio, dove si è chiuso un po' un grande ciclo di tanti impegni, però adesso proprio già da questa settimana siamo presissimi e quindi felicissimi domani di essere appunto a Milano, poi tra un paio di settimane iniziamo una serie di laboratori qui in Valcamonica con le scuole, un laboratorio appunto sull'educazione all'ascolto, paesaggio sonoro, materia sonora. E ce li portiamo un po' avanti per circa 3 settimane e inframmezzati poi in altre performance, installazione Un'installazione. interattiva, insomma c'è tanto tanto da lavorare, quindi sempre un po' in giro, sempre un po' davanti al computer quando non si è in giro e anche con le mani sugli strumenti, ovviamente, che senza di quelli non ci si muove. Immagino, immagino. Volete presentare un pochino il vostro progetto che è sicuramente molto molto particolare e molto, insomma, atipico e super interessante anche perché voi due Volentieri. siete un'unione di due forze, insomma, non da poco, ecco. Ma volentieri, volentieri. Allora, da dove partire? Allora, io appunto sono la parte più di scultura, appunto io lavoro la pietra, sono scultrice e se partiamo anche prima di conoscere Ale, lavorando la forma, mi sono sempre accorta che nelle mie gestualità, nel lavoro, nell'andare a scavare la forma e portarla poi alla luce, generavo sempre delle sonorità differenti, le quali però non sapevo tradurre, perciò mi è sempre rimasto questo pallino di interesse, ma effettivamente non sapevo dove poteva portarmi. Conoscendo 8 anni fa Alessandro, è stato poi naturale interessarci a livello reciproco delle nostre professionalità, appunto Ale, musicista e sound designer, da lì lavorando principalmente come ricerca sulla pietra e il suono. Però portata più su installazioni ambientali, campionamenti sonori per un progetto su cave abbandonate, e perciò dove il fine poi era il risultato fisico-scultoreo legato a un lavoro sonoro che andasse a dialogare con la forma. Perciò anche questi concetti principalmente sui quali lavoriamo, sul scioglimento della materia, sul nodo, però adesso la forma decade, sono sculture che si appendono in marmo e sembra che stanno appunto colando, e anche lì il concetto del suono di pensiero è lo stesso mutamento di forma a livello sonoro, cioè visivo-tattile e sonoro. Però negli ultimi appunto, ormai 2 anni fa, tra una cosa e l'altra, ci siamo veramente accorti che sì, ok, uno vede il lavoro finito, ma cos'è che ci sta dietro? Noi possiamo portare questa cosa anche su un'altra forma. Ed è lì appunto nato Molom come idea di concetto di portare una sorta di laboratorio anche a livello pubblico, perciò tutto quello che facciamo anche in studio normalmente, cioè io lavoro, anche Ale stava, non so qual è la sua parte di ricerca, però campionava le mie parti, le trasportava, rielaborava in real time e abbiamo detto allora di capire come portare perciò questa cosa anche fuori, lavorando proprio su una prima parte che in genere dalla forma si fanno questi tagli e e si inizia a levare la materia per poi iniziare a cercare di tirar fuori la forma. Però ci fermiamo in questo primo set su questo primo gesto che avviene verso la materia, perciò la materia salta, si leva, perciò inizia a diminuire, però anche lì questi piccoli frammenti che saltano dalla forma fanno parte della stessa materia, ma che valore hanno? Perciò anche questo ulteriore, cioè questo scarto, può avere un potenziale, perciò da lì, attraverso varie gestualità, si cerca di farlo diventare ancora più piccolo, ma questo può creare qualcosa, sì, perché in effetti, come una matita può disegnare su un foglio, anche la pietra può incidere una lastra di metallo. E appunto nel set poi che porteremo, ma vado avanti poi per parlare così anche uguale, la lastra diventa un documento dell'azione che stiamo facendo. Io vendo vari microfoni. Ogni mio gesto di intento sulla pietra dà un input sonoro ad Alessandro che rielabora e c'è questo continuo perciò dialogo costante in mezzo di Diciamo che set. hai descritto L'evoluzione perché siamo arrivati a esatto. Molo. Ed è appunto il succo proprio di quello che è il dialogo che avviene durante la performance. Come dici, le tue gestualità generano questi spazi in cui il suono viene a crearsi, però viene anche parallelamente anche elaborato, modificato, viene memorizzato, quindi attraverso vari multi-looper, diciamo che si va a creare questa banca sonora in diretta che poi viene utilizzata durante il set per entrare ancora in dialogo con i nuovi gesti che appunto fa Milena. Troveremo appunto gli attrezzi come dei mazzuoli, degli scalpelli, trapani, spatole, quindi tutti i materiali diciamo, che servono per lavorare la materia e a livello sonoro l'80%, anche di più in realtà, è improvvisato su dei canovacci che noi abbiamo, perché ci sono dei moduli all'interno della performance che ci permettono di essere fondamentalmente delle guide. Però ovviamente in base alla periodicità, in base alla tipologia di materiale che utilizziamo ogni volta, ovviamente è una pietra di scarto differente, quindi a volte ci sono dei calcare, a volte dei marmi, a volte delle pietre anche più dure, ma anche l'ambiente ovviamente determina quello che è la risonanza dello spazio. Tutto questo poi, quello che viene captato poi dai microfoni, sia microfoni a contatto che microfoni direzionali, ovviamente va a creare una pasta sonora differente ogni volta. E quindi poi il gioco è quello di riuscire ad entrarci ogni volta e estrapolarne quello che è il suo significato in quel momento. Molto, molto bello. Molto, molto interessante questa, come viene percepita poi da me, questa unione tra un gesto in realtà semplice, che però dentro ha tantissima complessità, e quindi poi riuscire a trasmutarla in suono, trasmutarla in performance e portare avanti queste due caratteristiche, no? Unire il semplice al complesso, la materia alla non materia, un po'. Esatto. Un gioco di opposti che però si uniscono, ecco, è molto molto molto molto bello, molto molto Sì, a interessante. me è piaciuto molto anche il concetto filosofico che sta dietro, che hai raccontato adesso tu, Milena, nel dare l'importanza allo scarto, nel senso che quello che viene scartato dallo scultore come scarto di lavoro non è uno scarto di lavoro, ma è un nuovo oggetto. Quindi è una cosa estremamente contemporanea come messaggio che viene spinto all'interno della performance, che è tanto di cappello riuscire a valorizzare adesso questi temi e trasformarli in arte come voi sapete fare, perché io ho avuto la fortuna di assistere a un vostro live l'anno scorso, se non ricordo male, Sì, esatto. e cavolo, bello, molto molto bello, quindi Ma non vedo l'ora io sia domani sera. non l'ho mai sentito live. Ma ho una domanda in merito appunto a questo tema dello scarto, degli scarti, no? Questo blocco di pietra che viene rotto, distrutto, questi frammenti. Poi questi frammenti vengono ulteriormente lavorati, cosa succede dopo, oltre appunto alle incisioni di cui avete parlato, però proprio dell'elemento pietra e di questi piccoli frammenti, avete dei progetti, vengono riutilizzati, cosa succede, ecco. Esatto, continuano ancora ad essere spunto creativo, cioè anche questi frammenti, perciò ripartiamo blocco intero, preparato i tagli, si dispera della materia, perciò dall'insieme si crea il caos, perciò con questi frammenti che poi raccogliamo di quello che rimane delle performance, Creo di rifare, cioè cerco di ridargli un nuovo ordine, perciò diventano delle stampe dove inchiostro questi frammenti e cerco di dargli un nuovo ordine, una nuova intenzione di unione, un po' come se volessero ritornare insieme, ricreare qualcosa ancora di nuovo di blocco. Perciò anche questo concetto di un po' ciclico che ritorna, di trasformazione della materia, di elemento, cioè di caos ordine. Abbiamo un po' di cose che stanno tornando. Perciò allora questi frammenti ritornano a diventare materiali più di stampa, quelli che teniamo, poi ne abbiamo ancora, poi io dico, oddio, belle le pietre, teniamole, ma rigenereranno sicuramente qualcos'altro. E appunto di parlare di rifarne delle sculture, ad esempio. Capire come riassemblarle potrebbero, sì, mi sono anche, ci siamo un po' interrogati su come potrebbero riassemblare, che fine potrebbero avere, che nuova forma dare. Rispetto sia o anche alla colorazione, perché veramente poi vari scarti che utilizziamo sono più chiari, più scuri, perciò sì, ne abbiamo un bel Sì, saccone di una che stanza. Ora vengono ulteriormente utilizzati, come diceva Milena, come strumenti per queste stampe. Ne abbiamo ancora alcune domande, le portiamo. E altre poi finiscono a casa di chi viene alle performance, perché è interessante anche questa cosa che ovviamente si rompe la materia madre, partono i sassi, vengono utilizzati per la performance, poi alcuni rimangono comunque a terra e ovviamente qualcuno può portarlo a casa. Quindi è un ulteriore blocco di scarti, però andrà pensate, dove? poi andrà in questa casa, Addosso. uno scarto diventa comunque un ricordo, un piccolo cimelio di un ricordo di una serata, quindi appunto una cosa che prima faceva parte di un macro oggetto, poi ha assunto un significato diverso tramite poi l'esperienza, la percezione. Quindi ecco, lavoriamo molto su questi temi, sia sulla trasformazione, la ciclicità e anche appunto il fenomeno delle percezioni. Super. Sono poi tre temi. Sì. Ma e poi è veramente stato incredibile, cioè veramente anch'io lavorando la forma, cioè veramente lo scarto, mi dice tu scultore, fai, cioè, te lo trovi intorno, ma non è mai, cioè non lo consideri. E infatti perciò lavorando dal blocco comunque grande, cerchi la forma, vai, lucidi, adesso ritrovarsi in effetti a dialogare con un elemento paradossalmente così piccolo è un po' disorientante, sono state delle fasi un po' Sì. dici... Ma adesso, cioè, 6 anni fa mi dicessero, ma sai che Milena fra un po' lavorerà a livello live? E... Ma no, ma che? Ma lo stesso all'Accademia o al liceo ti dicono questo lì? Sì, dai, vabbè. Perché si imparte magari anche con un forma mentis, ok, lavoro forma. Perciò è interessante come cioè, potersi interrogare anche su più aspetti, in questo caso della materia, che per noi è la pietra, ma però... Sempre sì, la troviamo stimolante anche questo aspetto Sì. più adesso performativo che ci sta accompagnando di più in E questi anni. come si trasforma la materia, come stavo dicendo prima, si trasforma anche il pensiero. Quindi, perché dargli un freno proprio a quello, anzi, che è la parte poi più creativa. Chissà che cosa viene fuori. È bello farsi delle domande a volte. Spesso magari non ti dai delle risposte e sbatti la testa contro il muro forte, forte, forte. Però, riuscire a farsi delle domande è sinonimo di curiosità. Incominci a voler cercare di porti dei nuovi quesiti. Quindi, È vero, è vero, ben venga, se il vostro lavoro vi suscita delle domande, vuol dire che è ancora in fase trasformativa. Quindi è molto, molto bello. Ne vorrebbero tanti di progetti così. Tante ma ce ne persone sono, sì. No, fortunatamente, ce ne dai. sono. È che è difficile magari il circuito per promuoverli, per riuscire a venirne fuori. Infatti, uno dei motivi per cui abbiamo fatto anche questa rassegna era proprio per cercare di dare aria e respiro a performance come le vostre, performance non dei concerti canonici, che uno va e aspetta il classico concertino dove c'è la band che suona, che per l'amor di Dio, Alessandro, tu batterista, ben Ma sai, infatti, infatti. sai benissimo di che cosa stiamo parlando. Avere un nuovo punto di incontro, avere un nuovo ritrovo, poi chissà se ci sarà una seconda edizione, non si saprà mai, ma è bello, cioè, riuscire a creare un movimento ed è bello poi incontrare persone come voi perché sappiamo che ci sarà poi, da idea nasce idea, magari ci sarà la possibilità di ricreare qualche cosa da altre parti, riportare in giro cose nuove, speriamo. Sì, infatti no, è bello che riusciate a creare l'occasione, alla fine è quello, voi date la possibilità di avere un'occasione, poi anche per, sì, allo stesso per la parte di noi artisti, ma anche per il pubblico, date l'occasione di poter magari avere uno sguardo diverso. Poi può piacere, non può piacere, però l'idea di creare l'occasione è sempre molto bella, di, poi di incontro e di possibilità. Perciò auguriamo che possiate fare mille di altre Vedremo, rassegne. vedremo. Grazie. Grazie, ragazzi, veramente E, gentili. voi tra l'altro poi viaggiate anche tanto e l'anno scorso mi sembra che avete iniziato a fare questo progetto legato anche ai vulcani, giusto? Esatto, praticamente lo scorso anno, tutto il mese di ottobre, abbiamo fatto questa residenza alle Azzorre, a Faial, presso Vista Vulcao, che è appunto una residenza d'artista, e ci volevamo proprio prendere il tempo per lavorare appunto anche in maniera così molto, diciamo, Focalizzata. focalizzata, non dico serrata, perché poi effettivamente lì il tempo si è anche molto dilatato su aspetti di una pietra molto diversa rispetto a quella che tendenzialmente trattiamo, quindi la pietra lavica, in un territorio in cui effettivamente la materia è in costante movimento. Pensate anche solo che appunto dove eravamo noi in residenza, quella casa di Missao, era stata una casa, un osservatorio per la formazione di questo vulcano che si è creato nel 1958 dall'oceano. Quindi, però, c'era un certo punto, il vulcano del Capelinhos in un anno ha deciso di formarsi, quindi di diventare una nuova parte dell'isola. Non si parla di Cioè, esatto. parliamo di 60, quasi poco meno di 70 anni fa. E quindi praticamente, un po' anche dai racconti che abbiamo raccolto durante la nostra permanenza, è una terra che a loro non fa paura, però è in costante trasformazione. Nel 97 c'è stato un terremoto che ha devastato l'80-60% delle abitazioni dell'isola di Faial. E anche qua si parla di poco meno di 30 anni fa. Eppure c'è veramente una forza pazzesca, gli elementi sono in qualche maniera esasperati. Tu vivi lì anche a livello temporale, non ti sembra di aver passato un mese, ti sembra di aver passato un pomeriggio. Però, insomma, a parte questa, diciamo, divagazione, abbiamo avuto modo di lavorare appunto con gli elementi facendo field recording, siamo stati all'interno di queste grotte formate da fiumi lavici, e poi ora rimane interessante anche lì come la trasformazione sia molto evidente da un posto che un tempo era colato di lava e ora rimangono solo dei semplici sgoccioli, piuttosto che abbiamo visto questi biologi marini che ci hanno fornito delle registrazioni di richiami sonar di balene, megattere, fidogli e una vastissima collezione poi di suoni proprio delle pietre, le sabbie vulcaniche. Queste pietre porose che diventano fondamentalmente, si sbriciolano col contatto. Infatti abbiamo avuto modo di cercare un approccio anche diverso, uno stimolo nuovo. Perciò sì, noi prima di partire ci eravamo fatto un po' delle mappe, però alla fine quando poi veramente uno vive il luogo che può avere la risposta al fare. E in effetti tutto questo, come dicevi tu, trasformazione, cambiamento, ma tutto sommato anche tranquillità delle persone che fanno, cioè, sanno che tutto muta, abbiamo lavorato più sul piccolo gesto, cioè avendo raccolto varie tipologie di pietre vulcaniche, resti appunto di fari, di ceramiche, rotti, perciò anche lì l'ordine, il disordine, la pietra riappoggiata su questi frammenti dava perciò possibilità sonore di campionamenti sonori che abbiamo fatto sia nella grotta che in altre parti di ambienti. Perciò lì abbiamo fatto già una prima restituzione chiamata silenzio vulcanico, perché è veramente tutto questo solido liquido che Si si mescola, intreccia, si sì. intreccia. E poi ecco anche l'idea, aggiungo, quando parlavamo prima dell'eruzione, della formazione di questo vulcano nel 58, è assurdo perché non faceva rumori, cioè molto probabilmente faceva rumori molto fondi, molto sub, però la percezione non era il borbottio del magma, della lava, era incredibile questa cosa qua Ci hanno che, no? raccontato, esatto, anche da video documentari che hanno fatto in quel periodo, che uno cioè, si immagina una cosa potentissima. In realtà è stato un anno di gorgoglio Sì, ma continuo. molto, molto, molto tenue. E ad ora abbiamo sempre un po' questo set, questo approccio in vari moduli che stiamo sempre portando avanti, perché forse nascerà appunto un lavoro più, chiamiamolo, contemplativo e healing rispetto a quello che vedrete domani sera, però questo è ancora in Sì, in fase fase di di lavorazione. azione, è stato molto stimolante, Le sì, avere immagino una che collaborazione dare. anche. Mi scusami, immagino che dare una scalpellata a una pietra lavica la frantumerai in mille pezzi, probabilmente. Sì, ma infatti lì abbiamo avuto sia quelle molto dure, ma poi anche quelle più porose che sembravano proprio pomici. Perciò anche lì abbiamo fatto più un lavoro di erosione della roccia, utilizzando questa più morbida contro rocce più dure. Infatti anche lì da forme malformi, alla fine del lavoro che facevamo, diventavano delle gocce. Perciò questo gesto continuo del levigare, passare, sempre poi con vari microfoni, andava però poi a generare una forma morbida e richiamava questa forma liquida. Perciò sì, anche lì il non utilizzare perciò degli strumenti da scultore, scalpello, punta, ma la pietra stessa contro la pietra. Boh, sono delle nuove, diciamo, input che abbiamo lì, levarsi da altri strumenti e cercare di utilizzare la pietra stessa. Ad ora siamo lì, però vediamo, sempre nuovi input, sì. Molto, molto bello. Stavo pensando che il piano di neoformazione lì alle Azzorre ha quasi la mia età. Il È giovane il vulcano, giovane vulcano. anche tu, Potresti sempre dire che sei più giovane di un anch'io vulcano. Gorgoglio, a volte esplodo anche, però più che altro borbotto spesso. Classico. Quindi c'è già stata una restituzione, però insomma state pianificando poi di portare live anche questo progetto. Anche questo, esatto. Ma anche in parallelo stiamo pensando anche di concretizzare delle tracce audio, perché ecco un aspetto che fino a qualche tempo fa non avevamo troppo considerato era l'idea di mettere comunque su un supporto, ma anche digitalmente, comunque, o comunque formalizzare la ricerca anche a livello solo musicale proprio, perché comunque c'è la parte gestuale, la parte performativa, la parte anche visuale che è molto importante, quindi un 50-50, però poi rielaborando comunque alcune registrazioni c'è del materiale molto interessante sia a livello documentativo che proprio anche a livello di rielaborazione, e quindi adesso stiamo pensando anche di Uscita. pubblicare, cercando anche, c'è qualche etichetta che può essere interessante più avanti alla tipologia di ricerca, ma ci faremo un po' più perché è del materiale che ci piacerebbe prima o poi anche. Lanciamo un appello. No, Esatto, sarebbe un appello. un'ulteriore modalità d'approccio, perché appunto ancora non ho assistito a una vostra performance live e sono estremamente curiosa, però appunto penso che anche l'impatto visivo delle vostre performance sia molto potente. E quindi poi sarebbe un ulteriore forse poi lavorare di nuovo con la forma, andando a togliere. Sì. Comunque avrebbe super senso avere anche Sì, un infatti. dedicata solo alla parte audio, nonostante la parte visiva vostra è molto, molto importante. Sì, forse ridà anche il giusto valore a quello che è il suono della materia, perché giustamente, come Anche diceva infatti. Francesca adesso, una performance molto forte da un punto di visivo spesso distoglie l'attenzione dall'ascolto, nel senso che sono vista e orecchio spesso e volentieri non vanno molto d'accordo. E Bravo, sì. quindi ridargli un'uscita audio ha sicuramente anche il giusto premio al suono della materia e non la gestualità del lavorare, del trasformare la materia. Sì, forse poi dà anche molto più apertura all'immaginario di chi ascolta, perché non ha più poi il suono. Anche infatti, sì. Quindi chissà, poi magari il suono di questa materia che si va a sgretolare può portare ad altri tipi di ricordi, altri tipi di immagini, quindi super, super progetto. Esatto, e ci auguriamo anche in futuro una cosa che ci solleciti, anche poter lavorare con qualche visual artist, qualcuno che lavora con il video ci stimolerebbe, sarebbe una cosa curiosa perché ci è capitato appunto tramite una curatrice di lavorare con uno scrittore, Niccolò Porcelluzzi, col quale abbiamo ibridato la performance, perciò lui ha trattato la parola, perché noi non c'è parola, perciò l'idea di ritualità e di magia della pietra ed è stato molto stimolante, sorprendente, perché non aveva mai considerato la cosa. Perciò riflettendo anche lì, sarebbe bello poter collaborare con qualcuno che lavora più a livello Visivo, visivo. video digitale, ma chi lo sa, ci sono input che poi ogni tanto ci lanciamo, poi ben sapendo che così c'è un equilibrio che funziona, però anche l'idea poi di Ogni provare anche ad tanto. aprire degli spiragli collaborativi, assolutamente, anzi per noi sempre stato fondamentale per collaborare con altre. Pienamente parli con due che hanno deciso di collaborare. Esatto. L'unione fa la forza, si dice. Esatto, sì. No, no, il collaborare, io sono poi legato molto al concetto del fluxus, come era la corrente artistica, quindi la condivisione di diverse arti è genero di, genera idee, porta nuove soluzioni. Vero, vero, vero, vero. Sì, tante volte magari sono anche dei pensieri che avevi tempo prima, dici, ecco qua la chiave, ce l'aveva qualcun altro. Ma sì, No, assolutamente sì. tante volte è proprio così, Sì. Bisogna aprire le porte dei propri giardini e fare entrare e ospitare gente, farci. Assolutamente sì. Ragazzi, adesso noi avremo la prossima mezz'ora più o meno, sarà invece dedicata a una vostra playlist musicale, giusto? Avete raccontarci qualche cosa in merito? C'è cioè una scelta particolare per i brani? O è quello che l'accompagna in macchina durante le trasferte? Allora, quello sarebbe bello perché dobbiamo andare in realtà però dall'elettrauto a far sistemare l'autoradio. Che non ci funziona, anzi, che tra l'altro è Ma una chi? periodo di Alessandro, Natale. canti tu durante i viaggi? Sei Cosa? tu l'autoradio durante i viaggi, Esatto, canti tu? a questo punto chiacchierando, però, perché però abbiamo qua Lando Norris che guida per noi, perché Milena è la nostra driver. Io sono come Idra, io non guido, quindi io parlo. Abbiamo altre qualità. Esatto. E se dovessimo fare un tour insieme, Idra, treno, basta. Bello, Treno in bicicletta, anche, che è proprio in bicicletta. bello. E, la scelta dei brani in realtà non è stata facile, perché ascoltando tantissima musica, anche molto eterogenea, è difficile proprio andare poi a sintetizzare il tutto in una mezz'ora. Però quello che abbiamo fatto è cercare di pescare dei brani che in una qualche forma, non per forza come forma musicale, abbiano dei punti di contatto con Molam. Quindi abbiamo pescato da Nicolas Jaar il lavoro che ha fatto con l'Archive de Piedras, dei lavori anche di producer abbastanza sconosciuti, tipo Anu, che è questo producer californiano che fa fondamentalmente una sorta di glitch elettronica con questi micro beat, brani molto brevi, però hanno un carattere. Mi piace molto, così come Jan Jalinek, uno dei nostri produttori tedeschi preferiti, sono dei dischi più belli negli anni 2000, nell'ambito sempre un po' tra la jazz ambient glitch. Insomma, ci si gira un po' intorno a questo mondo, tra il materico, l'elettronico e un po' la ricomposizione di questi mondi. C'era anche il progetto SWOD, che ci è sempre piaciuto tantissimo, di Olivier Dorel, di Dictaphone e tanti altri progetti, però il consiglio è proprio dare un ascolto. Qualcosina di quello che sentirete durante la playlist potrà emergere domani, ma dipende un po' da varie, insomma, dinamiche. Ma è più un accompagnamento, un po' quello che è non la nostra ispirazione, ma il nostro accompagnamento. Perché poi ecco l'ispirazione fondamentale musicale di Molom è un progetto che non nasce da un'estetica musicale che deve essere presa a modello, ma in realtà è proprio un incontro tra la materia e quello che poi viene generato a livello sonoro. Però ovviamente poi Sì. riascoltandoci alcune cose ovviamente emergono dalla nostra, dai Negli nostri ascolti, ascolti. sì. Quindi ecco, questa è un po' una sintesi Adora, ad ora. esatto, ma Esatto, quello che potrete adora. sentire. Di niente, tuffiamoci allora in questo mondo sonoro Esatto. creato e messo Molom insieme Molam. firmato. Non vedo l'ora di domani, logicamente. Sembra di essere un po' ripetitivo perché lo dico ogni volta, ma un concerto sempre più bello, uno più bello dell'altro, quindi contento. Vero? Grazie, grazie mille ragazzi, ci vediamo presto, grazie a Ci tutti per vediamo domani. l'ascolto e buon ascolto. Perfetto, buon ascolto a tutti, ci vediamo domani e anche ragazzi, ci abbracciamo finalmente domani, che bello. Esatto. Grazie, veramente. Bene, ciao. Ciao ragazzi, ciao. Ciao, ciao. También hay armas, restos de guerra. No me sorprendería si muertos silbando ahí adentro. Tráeme el canguilón que tengo que tomar. Tengo una sed, no importa si hay sangre. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué vamos a hacer? Todo lo que puedo decir lo dijo la mujer.

Thank you.